Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiavergio. Buongiorno e bentornati alla finestra sul cortile, il nostro appuntamento settimanale con le pagine culturali dei giornali stranieri. C'era una volta la Rive Gauche, la culla dell'intelligenza francese degli anni 50 e 60, la fucina di idee del maggio 68. Allora Parigi sembrava l'ombelico del mondo, la capitale culturale, il punto di riferimento di letterati e filosofi di ogni continente. E oggi? Che cos'è la Francia di oggi, la Francia di Sarkozy? Esistono ancora i maître-à-penser? Dove sono? Chi sono? E che peso hanno nella società e nella politica francese? Di questo parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma gli argomenti sono vari e li ascoltiamo ora nel nostro sommario. Stati Uniti, siete stanchi? Andate a correre! Secondo una ricerca americana, l'esercizio fisico è la migliore forma di riposo. Cina, se pensate che l'aria nelle strade cinesi sia irrespirabile, non avete mai provato quella nelle case. Può essere anche 10 volte peggiore. Giappone. È una geisha che balla il tango, la protagonista dell'ultimo spettacolo di Sugimoto. Argentina e Giappone non sono mai stati così vicini. Francia. C'era una volta Sartre. Chi sono e quanto contano les intellectuels nell'era di Sarkozy? Germania. Uno studioso tedesco indaga la moda del name dropping, l'arte di fare bella figura citando personaggi importanti di cui spesso si conosce poco o niente. Libano. Non riuscendo ad esportare la democrazia nei paesi arabi, gli americani ci provano con le Harley Davidson e i risultati sono sorprendenti. Dottore, mi sento sempre stanco. Questa è una delle frasi forse più ricorrenti negli studi medici di tutto il mondo, una delle richieste o delle lamentele che i pazienti fanno ai loro medici curanti. E nello stesso tempo è anche uno dei problemi più insoluti della medicina, perché da cosa nasca, da cosa derivi la stanchezza e come la si possa curare, non essendo generalmente una malattia, a meno che sia la famosa sindrome di stanchezza cronica, è uno dei grossi enigmi che gli scienziati stanno cercando di risolvere. E Judy Foreman sul Boston Globe ci parla per l'appunto degli ultimi risultati della ricerca biomedica in questo campo. Dice che proprio recentemente si sono riuniti in America gli esperti del National Institute on Aging, cioè i gerontologi, quelli che studiano l'invecchiamento e che sono una parte del National Institutes of Health, e che hanno cercato di studiare che cosa succede nel cervello umano e nel resto del corpo quando una persona ha la sensazione di essere affaticato. E la Judy Foreman intervista il dottor Luigi Ferrucci, uno degli organizzatori della conferenza. Luigi Ferrucci è uno scienziato italiano che per l'appunto lavora negli Stati Uniti, come spesso succede ai migliori dei nostri cervelli. E il dottor Luigi Ferrucci spiega per l'appunto che la stanchezza ha una base molecolare e che coinvolge due importanti processi biologici, in particolare l'eccesso di citochine, che sono delle sostanze chimiche naturali prodotte dal corpo che accentuano l'infiammazione come reazione alle infezioni. E poi dice i mitocondri pigri. I mitocondri sono dei piccoli organi all'interno delle nostre cellule che producono energia. Quindi questi due aspetti combinati insieme danno il senso della stanchezza. Ma l'altra scoperta importante della ricerca citata dal Boston Globe è che l'esercizio fisico combatte la stanchezza, quindi riposarsi in un letto non sempre fa bene, anzi può accentuare la stanchezza e peggiorare i sintomi, mentre invece fare un po' di esercizio che cosa fa? Abbatte le citochine cattive e invece incentiva, rafforza l'efficienza dei mitocondri che altrimenti se ne starebbero tranquilli e non producono a sufficiente energia. Insomma, due aspetti insieme che combinati consentono di combattere la stanchezza. Per cui se siete stanchi non riposatevi, andate a fare esercizio fisico. Chi fa molto esercizio fisico è il nostro ospite che salutiamo, Stefano Baldini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stefano Baldini non ha bisogno di presentazioni perché il pubblico, i telespettatori, degli appassionati di atletica lo ha applaudito e ha ammirato la sua impresa alle Olimpiadi di Atene del 2004, quando ha vinto la medaglia d'oro, ma anche nel 2008 ha partecipato alla maratona dei Giochi Olimpici di Pechino. Ma Baldini, a lei capita spesso di sentirsi stanco quando non fa esercizio, quando non corre, non cammina? Ma devo dire che la situazione succede, capita, e mi capita soprattutto in quei periodi di scarso allenamento come possono essere quelli successivi a una gara importante oppure quelli conseguenti a un infortunio. Effettivamente c'è questa sensazione di stanchezza, di pesantezza che invece l'esercizio fisico ti toglie, ma questo mi succede anche in periodi di allenamento non troppo intensi magari. Io uso allenarmi due volte al giorno, mattino e pomeriggio, e per questo motivo certe volte il pomeriggio sento proprio questa sensazione di stanchezza che effettivamente dopo la corsa se ne va e mi sento nettamente meglio, e probabilmente soltanto per il fatto che fare esercizio fisico aiuta la circolazione sanguigna, tiene svegli quelle che sono muscoli e articolazioni e effettivamente dà un senso di benessere. Ecco, come spiegano gli scienziati, la stanchezza ha due componenti, diciamo, una componente muscolare, fisica, e una componente psicologica, cioè il cervello ha un'importanza fondamentale. Ecco, lei durante una maratona come riesce a controllare, diciamo, il senso di spossatezza che questo sforzo sovrumano, ecco, potremmo dire, comporta? Beh, io farei un discorso diverso rispetto a persone che lavorano e che fanno esercizio fisico soltanto, non so, le 3-4 volte alla settimana. È chiaro che io faccio un esercizio fisico ad un certo livello, ecco, allenandomi certo 13 volte alla settimana e facendo al massimo delle mie possibilità. Ecco. Diciamo che quindi più che stanchezza muscolare durante una gara c'è più una sensazione di stanchezza generale, di energie che vanno ad esaurirsi. Certo. E il primo effetto che questo ha sopra i muscoli è la sensazione di crampi, la sensazione, ecco, di essere disidratati, e mentre invece mentalmente uno si trova ad essere comunque ancora molto lucido. Magari tu di testa vorresti fare una certa cosa che il fisico non riesce più a fare. E farei un discorso diverso invece per chi lavora fa 3-4 volte la settimana esercizio fisico, e la sensazione di gambe gonfie, di mente stanca è probabilmente derivante dal lavoro che si svolge, dalle condizioni nelle quali il lavoro si svolge, magari, esatto, dallo stress, dal fatto che magari uno rimane seduto per 6-7 ore al giorno, ed ecco che lì l'esercizio fisico può effettivamente avere un'importanza ancora maggiore, perché ti aiuta a drenare tossine, a drenare magari liquidi che uno ha accumulato durante la giornata, e comunque a mantenere anche la mente più lucida e più allenata. Io ho scritto anche un libro che sì, è uscito, certo, per Mondadori un anno e mezzo fa, e ha avuto un grosso successo perché le persone, soprattutto quelle che non hanno molto tempo, correre necessita di pochissimo tempo, camminare, correre, insomma quello che vogliamo. Questo libro effettivamente ha avuto un grosso successo perché probabilmente le persone hanno voglia di muoversi e hanno bisogno di informazioni per farlo. E com'è, meglio camminare o correre? Perché visto che lei ha fatto giustamente la distinzione, perché tutti, alcuni sostengono che per esempio il jogging troppo intenso logora le articolazioni, quindi è meglio una bella camminata che... Ma se facciamo un discorso del genere, qualsiasi cosa logora durante la vita di tutti i giorni, soprattutto con gli anni che passano. Diciamo che per una persona che è in forte stato di sedentarietà, è chiaro che non si può iniziare dall'oggi al domani con un'attività abbastanza intensa come la corsa, anche se fatta in modo blando. È per questo motivo che si consiglia di andare in modo graduale, cioè iniziando a camminare, poi alternando il cammino alla corsa, prolungando i periodi di corsa rispetto a quelli di camminata, e diciamo che in un paio di mesi, in circa 8 settimane, si riesce a fare anche un bel tratto di corsa consecutiva. Perché io insisto sulla corsa? Perché correre ti permette di, rispetto al camminare, di bruciare più energie, di tonificare di più i muscoli e quindi di avere più risultati. Certo. Bene, noi ringraziamo Baldini, buona giornata e auguri per la sua attività sportiva. Grazie a voi. A presto. E a proposito di Olimpiadi e di Cina, leggiamo sul Los Angeles Times che uno dei grossi problemi della Cina di oggi è l'inquinamento, e fin qui niente di nuovo, ma soprattutto l'inquinamento domestico. La Cina ha già, scrive John Gliona del Los Angeles Times, ha già 16 delle 20 città più inquinate del mondo, e questo è una conseguenza ovviamente del tumultuoso sviluppo economico del paese. Ma dei ricercatori hanno scoperto che soprattutto le classi povere respirano un'aria molto peggiore in casa loro, soprattutto per via del riscaldamento, che spesso è ancora basato sul carbone o sul legno. E in più quasi la metà degli uomini, dei maschi cinesi, fuma sigarette, e questo inquina ancora di più l'aria di casa. Si calcola che entro i prossimi 25 anni 83 milioni di cinesi moriranno di cancro al polmone e di altre malattie respiratorie. Ma ai governanti cinesi importa qualcosa dei loro cittadini, o gli importa soltanto di buttare un po' di fumo negli occhi con le Olimpiadi? E dalla Cina andiamo al Giappone, dove una attrice showgirl, Aya Sugimoto, è riuscita a fondere sulla scena la tradizione giapponese e il tango argentino, un connubio abbastanza inedito e sorprendente, che serve a questa grande showgirl per mettere in scena le passioni. Sostiene Aya Sugimoto, che è famosa per aver rotto un matrimonio in maniera clamorosa e per essersi battuta per i diritti della donna nella società giapponese, sostiene che le passioni di una geisha del 600, Sada Abe, possono benissimo andare d'accordo con la tradizione del tango argentino. Dice: la passione di una donna giapponese non può essere espressa da un danzatore argentino, ma il tango ballato da una giapponese certamente lo rende molto efficacemente. La finestra sul cortile. Come sta la cultura francese? Dopo la recente assegnazione del Nobel per la letteratura a Jean-Marie Leclésiot, sembrava che appunto in qualche maniera ci fosse un riscatto della cultura francese in un momento in cui appariva un po' appannata, un po' in crisi, tant'è vero che il 3 dicembre del 2007 il settimanale americano Time aveva dedicato un'inchiesta di copertina alla morte della cultura francese, un dossier in cui praticamente, illustrato con una foto del mimo Marceau, in cui praticamente si presentava la cultura francese come in profonda decadenza. L'autore di questa inchiesta era il giornalista americano Donald Morrison. Adesso il settimanale francese Nouvel Observateur cerca in qualche maniera una rivalsa facendo una controinchiesta intitolata Le pouvoir intellectuel en France, sottotitolo La République a-t-elle encore des idées, ha ancora delle idee la Repubblica, e in cui cerca di fare una panoramica di quello che è lo scenario del mondo intellettuale in Francia oggi nell'era di Sarkozy. Certo, dicono gli autori dell'inchiesta, Odd Lancelin e Elsa Vigoureux, non è facile orientarsi in questo bailam. Era molto più semplice ai tempi di Sartre e Aron, dove c'erano delle contrapposizioni molto nette tra gli schieramenti, tra la rive gauche, diciamo così, e la rive droite, tra gli intellettuali marxisti o vicini alla sinistra del Maggio francese e gli intellettuali liberali come Aron, blocco contro blocco. Adesso è tutto molto più confuso, fioriscono le riviste, i circoli culturali come la rivista neoconservatrice Le Meilleur des Mondes e le riviste di gauche, cioè dell'ultrasinistra come Vacarme, Multitude ou Mouvement, oppure come altre iniziative invece più centriste, più difficili da definire, come quella di Pierre Rosanvallon, che si chiama La République des Idées. Insomma, ci sono circoli, c'è una grande effervescenza, e però è molto difficile trovare come un bandolo della matassa. E Marcel Gauchet, che viene intervistato, il redattore, caporedattore della celebre rivista Le Débat, dice che ormai la situazione è tale che gli intellettuali non contano più come un tempo e che ormai siamo in piena era della vedettizzazione, per cui conta di più avere una presenza televisiva, apparire, che non avere delle idee originali. E poi si dice ancora in questa inchiesta del Nouvel Observateur, contano molto di più gli economisti che gli intellettuali, i filosofi, gli scrittori, come un tempo. Ma intanto abbiamo in linea la corrispondente dall'Italia del Nouvel Observateur, Marcel Padovani, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno Marcel. Buongiorno. Lei naturalmente conosce questa inchiesta che è stata fatta da questi suoi due colleghi, però volevamo capire un attimo insieme a lei qual era insomma effettivamente la geografia del potere intellettuale nella Francia di oggi con Sarkozy, se ha ancora uno spazio, se ha ancora un peso l'intelligenza oppure se è completamente ormai emarginata dalla politica. No, io direi che ci sono tre cose che mi saltano agli occhi dopo aver letto anche questa inchiesta, e che non c'è più, sono tre le cose. Non c'è più un intellettuale dominante, non c'è più. C'è stato Aron, c'è stato Sartre, piuttosto c'è stato prima Sartre e poi dopo Aron, e adesso non c'è più nessuno di quel calibro. Beh, questo può non essere un male, insomma, che non ci sia un maître à penser dominante, che magari c'è più democrazia, diciamo. Può non essere un male, ma può anche essere significativo della la diminuzione del potere dell'intellettuale. Ah. La seconda cosa che a me colpisce è che questi intellettuali non sono più contro il potere. Vuol dire, da noi l'intellettuale è uno che da secoli critica il potere. Certo. Una liberazione rispetto alla politica, eccetera. Non ci sono più e invece stanno facendo il salto dalla contestazione del potere alla partecipazione al potere. Ecco, lei pensa... Questo l'abbiamo visto, sì. Le faccio tre nomi, con Finkielkraut, con Glucksmann e soprattutto con Attali. Cioè tre personaggi, certo, della sinistra che hanno aderito al sarkozismo, che lavorano per Sarkozy. Aggiungerei anche Max Gallo. Ecco, ma Bernard-Henri Lévy, per esempio, anche appartiene a questa schiera, insomma, di... No, non è in questa schiera, in questo senso che lui non è stato arruolato da Sarkozy, rimane un po' marginale, ma non ha un'influenza tale da essere paragonabile a Sartre o a Raymond Aron. Questa è la, certo, seconda cosa che mi ha colpito. La terza che le dico è che questi intellettuali sono stati trasformati dalla TV. Cioè, certo, si fanno usare dai media, sono veramente scesi dal piedestallo per entrare sul piccolo schermo. E la vedettizzazione, come dice l'articolo, è forte. Da oracoli sono diventate praticamente partecipanti a una specie di isola dei famosi, anche loro. Non c'è dubbio. Ecco, ma questo capita un po' anche in Italia, ecco, direi, no? Questo sì. È una caratteristica, però forse la differenza è che Sarkozy tende più a cooptare anche quelli di tendenze diverse, mentre in Italia si mantengono ancora le distanze, le contrapposizioni. Sì, cioè lui li coopta e li fagocita, li mangia, li macina, non è che li fa fare delle cose. La famosa commissione Attali, che ha mobilitato la stampa anche in Italia, ha fatto le sue proposte, ma neanche due sono state realizzate. Sì, certo. Dunque si sono venduti per poco. Queste sono le cose che a me saltano di più agli occhi, però ci sono anche degli aspetti positivi in tutto questo. C'è, per esempio, credo che Parigi rimane tuttora una specie di capitale universale della cultura, vuol dire non c'è un fenomeno culturale che non sia riconosciuto tale se non è passato per Parigi. Sì. Questo rimane come e poi rimane anche per gli italiani, perché spesso dei letterati, degli scrittori italiani ritornano in Italia col beneficio di essere stati incoronati in Francia. Io penso a Milena Agus, questa scrittrice sarda molto brava, che è stata pubblicata in Italia senza successo, è andata a Parigi, ha avuto successo. Dopodiché ed è rientrata, certo, in Italia, ed è stata premiata, infatti. Ecco. Tra l'altro, appunto, questo riflette in qualche maniera la crisi della narrativa francese, perché non c'è più il grande scrittore, o di romanzi o di saggi, non c'è più. E ha ragione il Nouvel Observateur a dire che vince di più l'economista in questa fase. Ci sono dei personaggi che hanno da analizzare e da dire cose interessanti. Ecco, in passato Parigi era un po' il cuore della critica al neoliberismo, no? Penso a Bourdieu, ma anche altri intellettuali che negli anni passati criticavano la cosiddetta pensée unique di marca nordamericana. Ecco, ora la crisi finanziaria globale sembra in qualche maniera dare ragione a questi critici. Ai critici del neoliberismo, sì. Sì, dà un po' ragione, ma nello stesso tempo, se dà ragione nei termini in quali sta dando ragione, è un modo anche per affossare, perché non è che ne esce qualcosa di molto, molto positivo, molto importante, e non è che si rilegge Pierre Bourdieu o che si rilegge Roland Barthes, no. Siamo in una fase in cui sembra che ci sia poco da dire, poco da raccontare, e i grandi talenti sono scomparsi. Però c'è in Francia una cosa che voglio sottolineare qui, è che quando un grande autore, che sia greco, italiano, tedesco, eccetera, viene adottato da Parigi, i francesi sono convinti che non sia più uno straniero, diventa francese. C'è un cannibalismo, sì, del mondo francese rispetto alla creatività nel mondo. Nel mondo, ecco. Noi ringraziamo Marcel Padovani, buona giornata e a presto. Arrivederci. E andiamo in Germania, sulle pagine della Frankfurter Allgemeine. Peter Dittko, presidente dell'Accademia Tedesca di Retorica, parla di un vizietto molto diffuso tra gli intellettuali e nella buona borghesia, nei salotti, cioè il cosiddetto name dropping. In pratica si tratta del vantarsi parlando di altri, facendo cadere nella conversazione il nome di qualche personaggio importante per impressionare gli interlocutori, dimostrando così le proprie frequentazioni altolocate. Nessun argomento logico colpisce di più che un bel nome piazzato a effetto. Ma attenzione, dice Dittko, dal vantarsi con eleganza al commettere una gaffe imprudente il passo è molto breve. Ad esempio, se i nomi che si fanno cadere sono palesemente al di fuori del proprio contesto sociale o delle proprie competenze. D'altronde, commenta Dittko, non tutti hanno una considerazione di sé tale da permettersi di poter fare name dropping nella maniera più sicura di tutte, quella di far cadere il proprio nome. come fa, pare, spesso e volentieri l'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl. E dalla Germania ci spostiamo in Medio Oriente, precisamente a Beirut. E proprio in Libano c'è stata recentemente una grande adunata di patiti della Harley Davidson, della famosa moto americana, provenienti da tutto il mondo arabo, Siria, Kuwait, Arabia Saudita. Erano almeno 130 i motociclisti e gli appassionati di Harley Davidson che si sono ritrovati in Libano. In pratica l'America fa qualche fatica a esportare la democrazia nei paesi del Medio Oriente, ma evidentemente uno degli ambasciatori migliori è proprio un marchio come quello dell'Harley Davidson. Saranno gli Easy Rider a liberare l'Islam? E per oggi è tutto, ringrazio Daniele Casagrande in redazione e Giorgio Mattè in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora. Buon weekend a tutti. E adesso c'è Che strada fa, restate con noi.